pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia della poetessa Simona Fioriti, dal titolo Dopo le 11. Dopo le 11 di sera, i bicchieri vuoti sono lenti d'ingrandimento affacciate a ridosso del cuore.